e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E benvenuti a tutti. Oggi torna la nostra scuola di risparmio. Ci sarà Deborah anche il domandone. Certo, l'interrogazione del giovedì. Poi la nostra favola di Natale. Insomma, il giovedì di Cuore Denari è stimolante ma impegnativo. Allora, siete pronti? Siete carichi? In altre parole, dovrei chiedervi: avete fatto colazione e cosa avete mangiato? 800 24 00 24. Vi ricordate, i nostri nonni dicevano che il mattino ha l'oro in bocca, e le ricerche ci dicono oggi che la prima colazione migliora le performance psicofisiche e aiuta anche a tenere il peso sotto controllo, e in questo periodo dell'anno è una buona indicazione. Ne parliamo tra poco, quindi scatenatevi al nostro numero verde 800 24 00 24. No, sì, perché è meglio il giorno di Natale avanti con un chilo in meno piuttosto che già con il sovraccarico. Allora, intanto chiederò ai nostri ascoltatori di raccontarci che cosa c'è sul vassoio. Oltre a raccontarci che cosa c'è sul vassoio della colazione, io ti racconterò cosa c'è, senti un po' qua, nel mio cestino, nel mio paniere. Nel paniere del Fondo Monetario Internazionale. Quello che c'è lì dentro non si mangiano, perché sono le valute, le divise, le monete. È uno dei temi che tratteremo oggi nella nostra scuola di risparmio di Investire Informati. Poi parleremo di Mario Draghi, come lo sai è un grande protagonista di questa rubrica del giovedì. Oggi è proprio la giornata più attesa dell'anno, probabilmente quella di una nuova riunione della Banca Centrale Americana che amplia il pacchetto di stimoli monetari, il quantitative easing, quindi termini un po' complicati che oggi ritradurremo di nuovo per i nostri ascoltatori. Per la scuola di risparmio, come sempre, per voi i microfoni sono aperti. 800 24 00 24. A tra poco. Svegliarsi la mattina. Allora, prima di occuparci dei nostri risparmi, facciamo scorta di energia. A proposito, sapreste quantificare il vostro livello di energia in questa mattina di dicembre? Sono le 10.37. Da 0 a 10, dove 0 sta per bradipo, animale tra l'altro molto simpatico ma incredibilmente lento, e 10 sta per leone, e quindi avanti coccodrilli, passeri, lumache, tori, colibrì. Chiamate il nostro numero verde, diteci come vi sentite, se siete già stanchi, se fate fatica a concentrarvi, se avete già fame, se schiacciereste volentieri un pisolino, ma diteci anche che lavoro fate, quali sono i compiti che siete chiamati a svolgere. Troveremo una soluzione per ogni vostro caso, ma c'è un denominatore che lega tutte queste storie all'apparenza diverse. Se la mattina è faticosa, probabilmente non è stato fatto il pieno giusto. Insomma, la colazione è stata insufficiente o inadeguata. Quindi oggi ripartiamo da zero. Il nostro numero verde è a vostra disposizione. Chiamateci se fate colazione con appetito e piacere, ma anche se la colazione la saltate a pie pari, se siete fan del cornetto e cappuccino, se vi concedete una buona colazione solo in vacanza, nel weekend o quando siete in albergo. Ci aiuta oggi il dottor Attilio Speciani, buongiorno, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, che tra l'altro alla colazione ha dedicato un libro bellissimo, Colazione Brunch per il benessere. Dottor Noce, buongiorno. Oh, buongiorno, poi io sono vispissimo oggi perché ho fatto un'ottima colazione, quindi allora, posso portare... Su questo non avevamo dubbi, volevo solo anticiparle che ancora prima che iniziassimo a presentarla, un ascoltatore ci scrive: volevo ringraziare il dottor Speciani e voi per avermelo fatto conoscere grazie al suo libro, La dieta GIFT, ho modificato la mia alimentazione, e via un complimento dietro all'altro. Ah, fantastico, hanno del buon gusto questi ascoltatori. Vero? Sono ben formati da voi, siete bravissime. Allora, e noi iniziamo subito con Domenica che ci chiama da Ancona, che ne dite? Buongiorno Domenica, prendiamo buongiorno. Questa buona abitudine che facciamo subito parlare i nostri ascoltatori. Sì cari, buongiorno a tutti, buongiorno. Buona giornata, anche se il tempo non è un granché, ma andiamo avanti lo stesso con tanta gioia. Tanta gioia perché io ho davanti a me una crostata fatta con le mie manine, croccante, e addirittura caramellata. E ho appena finito appunto di fare colazione con del caffè latte, e ovviamente compenso con lo zucchero di canna un po' di burro che ho aggiunto nella crostata, ma penso che ogni tanto cominciare la giornata così dia un senso di gioia particolare. Penso che l'esperto oggi me lo concederà. Ma certo, Domenica, intanto ci mandi almeno la foto di questa bellissima crostata. Ancoletana, aggiungerei. Perché si mangia anche con gli occhi. E intanto, esatto. Dottor Speciani, allora, una bella crostata fatta in casa. Vediamo, vediamo due aggettivi che mancano, che potrebbero dire che quindi è tutto fantastico. Costata di farina integrale, questo è un dato rilevante, perché oggi sappiamo che oltre al gusto c'è una sapidità incredibile delle farine integrali, che quindi dà, dà delle forze notevoli anche poi al risultato della cottura, al piacere dell'assunzione alimentare. Poi voglio dire una cosa bellissima a domenica, che in effetti la prima colazione, se io devo guardare qual è la possibilità di usare zucchero e dolcificazione nel corso della giornata, è un po' il momento unico, vero, in cui si può mangiare un dolce senza, senza stare a angosciarsi troppo, in un certo senso. Quindi benvenga. Mi mancano un po' di proteine aggiuntive, perché io ci aggiungerei qualche noce, giustamente, per stare in tema, però buono, ottimo, dai, direi che questa crostata croccante mi piace e già fa stimolare anche le papille gustative. Come dire. Allora, intanto vi invitiamo a chiamare il nostro numero verde, proprio come ha fatto domenica, 800 24 00 24. Diteci se e come fate colazione, soprattutto che lavoro svolgete. Dottor Speciani, dobbiamo aggiungere qualche altra indicazione. Io ho chiesto agli ascoltatori di segnalarci il loro livello di energia, perché dato che abbiamo bisogno di mettere quella giusta, di fare il pieno giusto, può essere sicuramente utile capire se alle 10:42 del mattino si sentono forti, pimpanti, un po' come dei leoni, oppure strisciano un po' come bradipi. Ma io credo il bradipo non striscia, in realtà, no, però no. Era un modo per dire che insomma l'energia è sotto i piedi. Ma io credo che, ad esempio, una precisazione alla domanda che avete fatto agli ascoltatori è se uno si sente un leone affamato o un bradipo affamato, perché questo è un segnale in più di peggiorativo. E qui vorrei dire una cosa proprio rispetto alla quantità della prima colazione, che spesso dipende anche dal tipo di attività che uno svolge, quindi dal proprio lavoro, dalla propria attività fisica complessiva, che noi diamo come indicazione di massima il fatto di mangiare secondo la propria fame, e nel giro di 8-10 giorni la fame che uno crede di avere come una specie di mannaia che ti accompagna, no? Cioè una sorta di situazione immanente che ti condiziona tutta l'esistenza, in realtà quando la prima colazione è fatta bene, nel giro di pochi giorni inizia a scomparire, viene una fame sana dopo 5-6 ore che uno ha effettivamente mangiato, non dopo 20 minuti o un'ora, che è un tema problematico. Quindi la quantità spesso si adatta bene alla fame. Se una persona sta a ascoltarsi, questo diventa un elemento limitativo che rende giusta la quantità di quello che uno mangia, sia per lo sportivo che fa un'attività fisica intensa, sia per chi sta facendo poco, è più minuto, è più piccolo, è più ridotto come, diciamo, volume corporeo. Quindi ascoltatevi e fate naturalmente ascoltare le vostre domande, i vostri dubbi al dottor Speciani. Abbiamo detto questa il giovedì è una mattina impegnativa a Cuore Denari, c'è la nostra scuola di risparmio. Oggi poi, come abbiamo iniziato dal 1° dicembre, dobbiamo un po' scatenare la nostra creatività perché c'è la favola di Natale. Sicuramente fare una buona colazione insomma è un buon passo, un buon modo di iniziare la giornata, perché lo possiamo intuire con un po' di buon senso tutti, no? E la colazione produce un buon effetto, no? A livello importantissimi. Però adesso mentre stava dicendo questa cosa mi è venuto in mente che domenica nella sua preparazione è un po' come scrivere, cioè c'è un opera delle proprie mani, del proprio intelletto. Allora questo passaggio sulla favola di Natale, ieri sono andato a leggermi quelli che hanno scritto, no? I pezzettini aggiunti alla favola di Natale di Vitali, e sono deliziosi, perché proprio ho fatto questo paragone sul come uno scrive perché esprime se stesso, e quando uno cucina, come domenica che ha preparato una crostata croccante, esprime se stesso. Quindi sono curiosissimo di andare avanti a leggere la favola di Natale come si sviluppa, perché è una bellissima perché idea. Poi l'idea è proprio di fare qualche cosa un po' tutti insieme. Faccio questa breve parentesi, abbiamo proprio avuto così l'intuizione, il desiderio, il piacere di scrivere questa favola con i nostri ascoltatori, un po' come si addobba l'albero di Natale in famiglia, no? Che tutti portano un po' il loro la pagina di Natale, esatto, eccetera. Quindi al di là del podio, perché ogni giorno verrà segnalato naturalmente l'ascoltatore che aggiunge il pezzettino alla favola, è proprio qualche cosa di piacevole di fare qualcosa insieme. Torniamo alla nostra colazione. Gli effetti sono provati, ricerca dopo ricerca, migliora le performance psicofisiche, aiuta a mangiare mantenere il peso, ma c'è un effetto molto interessante sul controllo della glicemia. Noi ci fermiamo un attimo qui perché dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Subito dopo torniamo con le vostre colazioni, le vostre indicazioni, il vostro livello di energia, ma soprattutto i consigli del dottor Attilio Speciani. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Cuore e Denari. Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Allora, la sveglia oggi, sicuramente l'avete messa, voglio chiedervi se avete fatto colazione. 800 24 00 24, chiamateci e raccontateci cosa avete mangiato, come vi sentite ora, se siete affamati, se siete ancora carichi mentalmente, fisicamente, se invece fate fatica a concentrarvi, chiamateci, noi saremo felici di darvi una mano e soprattutto aiutarvi a calibrare meglio la vostra colazione in base alle vostre esigenze. Dottor Speciani, il compito è impegnativo, ma lei la colazione l'ha fatta e potrei proporle di adottare come slogan per stamattina questo: la colazione può essere rimandata ma mai saltata. La ricerca lo dimostra. Professor, dottor Speciani, che dice? Ah, direi proprio di sì, nel senso che in realtà c'è proprio questo aspetto che caratterizza il perché, perché uno dice: ma perché devo mangiare in quel momento lì? È perché noi siamo abituati al ritmo del giorno e della notte, quindi in realtà nel momento in cui ci svegliamo, come Fantozzi con la sveglia all'incirca, ma diciamo nel ritmo più o meno vicino a quello del sole, in realtà abbiamo una valenza di produzione ormonale di ormoni che sono destinati a trasformare l'energia che entra in energia anziché in accumulo. Poi è chiaro, uno può anche stare a dormire e evitare, certo, di fare colazione, quindi a quel punto gli ormoni agiscono in senso di accumulo di grasso anziché in consumo di energia. Però è proprio lì, in quel momento, ci sono tutti gli ormoni, quelli sessuali, quelli tiroidei, quelli cortisolici, quelli tutta una serie di ormoni che dicono: ok, arriva adesso. Quando può essere ridotta? Quando può essere dilazionata, come dire? Nel momento in cui una persona, ad esempio, si alza e va a fare un'attività fisica, si va a fare un po' una sgambata, a muoversi, a fare una corsetta, a mettere in moto un po' la propria attività, a quel punto una colazione può anche ritardarsi, se no mediamente l'azione ormonale tende a scemare nel giro di un'oretta dall'inizio dal momento della sveglia, quindi di solito. Quindi cogliete l'attimo. Prima colazione, il pasto più importante della giornata, anche perché è piazzato lì in un momento ideale della mattinata, subito dopo il digiuno notturno, in un momento in cui gli ormoni dicono la loro, giusto? Giusto, e poi c'è un aspetto che anzi a me piace moltissimo, perché parlare di cuore e denari quando si parla di alimentazione e nutrizione in realtà sono due temi strettamente connessi. Sappiamo che iperglicemia e diabete sono una delle patologie che sta portando a condizionare i servizi sanitari, sociali di tutto il mondo occidentalizzato, e quindi è un problema economico grave, eppure sappiamo che facendo una prima colazione e pur mangiando le stesse calorie addirittura abbiamo un calo di oltre il 20% della glicemia durante la giornata. Quindi siamo di fronte ad una situazione in cui uno dice: riesco ad intervenire su una delle patologie più diffuse in crescita, che condiziona anche dal punto di vista economico la società di oggi, e attraverso una scelta che di fatto è una scelta di piacere, non è una scelta negativa, è una scelta in cui finalmente c'è un farmaco positivo, no? Come dire, certo, mangia qualcosa di buono, e questo è giovevole anche all'equilibrio della glicemia. Non è male come tipo di proposta. Ecco, un'indicazione che è utile non solo alle persone affette con diabete, ma a tutte le persone, perché controllare il livello della glicemia è un'operazione che aiuta tutti. Ma non solo, io proprio questa connessione con la parte economica e sociale, negli Stati Uniti in questo momento, in Cina in questo momento, quasi il 52% della popolazione ha uno stato di iperglicemia, il che significa che tristemente forse ci arriveremo anche noi se non mettiamo in moto dei meccanismi di cambiamento. Quindi il controllare lo sviluppo di questo tipo di tematica è già una bella azione preventiva fatta attraverso uno strumento piacevole. Guarda che il lavoro che è uscito è stato bellissimo, ancora pubblicato su Diabetologia nel nel maggio di quest'anno, in cui proprio si è detto addirittura le persone che facevano colazione rispetto a quelle che non la facevano, dopo il pranzo 23% in meno di glicemia postprandiale. Questo tra l'altro è un dato importante, vuol dire che l'organismo recepisce dei messaggi e dei segnali. È come se in realtà con la colazione mettessimo dentro un meccanismo che interviene anche qualche ora dopo e ci fa funzionare in maniera adeguata. Bellissimo. Adesso andiamo a dare la parola ai nostri ascoltatori. Intanto, per tutti coloro che stanno scrivendo al 349-238-6666, suggerendoci anche le domande naturalmente da porre al nostro esperto, parleremo della colazione per i bambini, parleremo della colazione, cercheremo di individuare delle tipologie di colazione soprattutto legate all'attività che svolgete, quindi se c'è una differenza, come ci invita a fare un nostro ascoltatore, tra la colazione che suggerita ad una persona che svolge un lavoro manuale rispetto a quella di una persona che svolge invece un lavoro intellettuale. 800 24 00 24, il dottor Speciani ci ha regalato delle colazioni che noi abbiamo preso dal suo libro, che è ricco di spunti, suggerimenti, dove ci sarà anche la colazione per lo sportivo, quella per le persone che non hanno una sensibilità nei confronti del glutine. Ma andiamo subito da Linda, che ci chiama da Genova. Buongiorno. Buongiorno Linda, benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Focaccia e cappuccino, Linda, no, a Genova. No. La mia colazione è prima di tutto un bicchiere di acqua tiepida con un po' di succo di limone. Poi il caffè, che dolcifico con una punta di miele. E poi il latte, che può essere latte parzialmente scremato, o latte di soia, o latte di riso. Ma il latte di riso lo scarto un po' perché è dolce. Ecco, io ho un leggero problema di glicemia. E poi con due fette biscottate con un velo di marmellata poco dolce, che faccio io, oppure muesli, oppure quelle formelle da mettere nel latte. Allora Linda, manca la frutta, ma non solo. Cosa manca, Linda? Dottor Speciani, la teniamo lì, lo diciamo anche ai nostri ascoltatori se vogliono partecipare. Cosa manca e che cosa dovrebbe sostituire? Andiamo a Sergio da Bologna, ce la facciamo prima del nostro GR. Sergio, buongiorno. Un lavoro impegnativo? Sì, buongiorno. Buongiorno a voi, al dottore. Dunque, volevo chiedervi se la mia colazione è giusta o meno. Al mattino dalle 2 alle 3 prendo la mia attività, per cui subito un tè caldo e subito dopo un caffè verso le 5:30, qualche caramella. Sergio, qualche caramella e qualche brioche, lei fa il camionista, vero? Sì. Ce l'hanno segnalato. No, 61 anni. E poi alle 10 mi viene una fame tremenda, che è ciò che trovo per da avanti. Mangiare, ecco. Mangerebbe il volante, gambe, del camion, anche, le gomme anche. Del camion. Allora Sergio, mi sa che il dottor Speciani dovrà lavorare parecchio per Sergio, intanto ha preso appunti perché noi ci stiamo avvicinando all'area GR. Mentre... Assolutamente, sarò velocissimo. Sì. Sia Sergio che Linda hanno delle scelte che sono da un lato positive e dall'altro invece sicuramente controproducenti. Mancano in entrambi i casi delle proteine. Se ad esempio Sergio, poi arrivo a Linda velocissimamente, se Sergio anziché prendere solo tè e caffè mangiasse dovunque sia qualche noce, qualche mandorla, una fettina di prosciutto, cioè qualche cosa di proteico fondamentalmente insieme magari ad una barretta di cereali, eviterebbe di avere tutta questa ricerca di caramelle, zuccheri e questo stato di fame impellente che arriva dopo. E lo stesso vale per Linda da Genova, poi lo so che a Genova c'è una cultura anche di alcune forme di proteine adeguate, giuste, e per cui insieme a questa scelta positiva, insieme al latte, in realtà l'integrazione giusto di qualche seme oleoso che c'è sempre, l'integrazione di magari di un residuo di un po' del pesce del giorno prima, qualche elemento proteico le consentirebbe di lavorare sulla sua glicemia in modo estremamente positivo e di sentire un'energia durante tutta la giornata potente. Quindi basterebbe un uovo, no? E l'uovo di Colombo. Assolutamente, bello, a me è piaciuta, questa mi piace. 800 24 00 24. Noi adesso andiamo a sentire il nostro GR, torniamo insieme con le vostre colazioni, spunti, suggerimenti e domande a tra poco per fare il pieno di energia. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Cuore e denari. Aldo! Aldo! Allora! Aldo! Allora che c'è? Allora abbiamo detto le 8, sono le 8 e 7. E c'è bisogno di gridare così, qui la gente mi conosce. Dai, sbrigati, scendi che dobbiamo anche ritirare il pacco, dai! Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo. Peperonata, alle 8 del mattino. Peperonata alle 8 del mattino, perché no? Perché c'è un nostro ascoltatore che ci ha scritto che ha mangiato un piatto di ceci bolliti conditi con olio, sale, un pizzico di zenzero e poi è andata avanti con mele, una tazza di bastoncini di crusca e voilà. 800 24 00 24, stiamo parlando dell'importanza di questo primo pasto della giornata che ci carica di energia ma soprattutto ci aiuta a mantenere il peso forma e a controllare anche la nostra glicemia. In linea con noi, questa volta purtroppo sono in linea e non in studio, il dottor Attilio Speciani. Chiamateci anche se proprio la colazione non la fate, la saltate perché non avete fame, non avete tempo, non avete voglia. Maurizio, buongiorno da Sondrio. Eccolo qua. Buongiorno Maurizio. Per la trasmissione è veramente fantastica. Grazie, anche lei è molto carino, Maurizio. Grazie. Allora, io spiego il mio problema. Io mi sveglio tutte le mattine alle 6, sono titolare di alcune lavanderie, per cui sto in piedi tutto il giorno, stiro tutto il giorno e quant'altro. Non ho assolutamente mai fame, ma questo anche nell'arco della giornata. Cioè, semplicemente... Vive io... d'amore e di lavoro. Ne sarà contenta mia moglie. No, a parte questo, veramente io non sento mai lo stimolo della fame. L'unica cosa che ho questi gonfiori quando probabilmente arriva il momento di avere fame o quant'altro, che mi bloccano tutto. Io poi al mattino assolutamente, cioè l'ultima cosa che mi viene in mente di fare è mangiare qualcosa, perché proprio... Allora Maurizio, lei deve un po' rieducarsi. Proviamo in vista del prossimo anno a cambiare un po' stile. Ci aiuta il dottor Speciani? Dottor Speciani, guardi, un osso duro Maurizio, eh? No, bisogna toccare il tema giusto. Allora, io sono sicuro che se nelle sue lavanderie finissero i detergenti e i ferri si rompessero, lui interverrebbe cambiandoli. Allora, come pensa alla programmazione delle sue lavanderie, deve pensare alla programmazione di se stesso. Significa mettersi in agenda, come fosse un impegno di lavoro, che quando si sveglia mangia, inizia con poco, inizia con due mandorle, un pezzettino di barretta di cereali e un goccio di caffè, cioè, ma iniziare. Ed è una programmazione che si porterà dietro come veramente una forza potente per migliorare la sua energia. Così le lavanderie, anziché 12, diventeranno 58 e va bene, ce la caviamo. Maurizio, passetto dopo passetto, mi raccomando, ci scriva. Il dottor Speciani, tra l'altro, ci ha regalato alcune delle ricette che fanno parte di questo bellissimo libro sulle colazioni. Vero. Con tanti spunti anche etnici, vorrei ricordare, segnalare ai nostri ascoltatori. Dottor Speciani, allora, la colazione vi mette tutti d'accordo, medici, esperti di alimentazione concordano nel dire che deve essere un pasto sostanzioso e completo, ma anche equilibrato e digeribile, accompagnato da una giusta idratazione. Ma tutte queste parole tradotte in pratica ci dà le quattro regole della colazione perfetta? Guarda, mi fa piacere anche citare il nostro amico comune Avoledo, che le ha messe tu come quattro mosse, ce ne aggiungo anche una quinta. La prima è farla, come si diceva, il secondo è un apporto corretto di proteine, e qui voglio citare un lavoro scientifico recente che spiega che se uno deve mangiare 60 grammi di proteine al giorno, deve mangiarne 20 al mattino, 20 a pranzo, 20 a cena, altrimenti non cresce il muscolo e cresce il grasso. Detto questo, che è un tema che riguarda un po' tutti, è importante, quindi farla, corretto apporto di proteine. Apporto di fibra vuol dire che la frutta o la verdura, se uno mangia ad esempio questo signore che ha mangiato i ceci bolliti, c'è dentro già della fibra ottima, per dire, vanno introdotti, con la frutta soprattutto. Stamattina ho bevuto una bellissima centrifugata, un frullato di cacao con dentro dello zenzero, buonissimo, una cosa buono fantastica. Domani buono. La faccio anch'io quella. E poi i liquidi giusti, cioè bisogna che il corpo sia reidratato durante la notte, si è perso liquido, si è evaporato un mucchio di acqua, quindi bisogna reintrodurla giusto.